vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 giugno, il sole in regione sorto alle 5.18 e tramonterà alle 20.54. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Il comparto che oggi Vita nei Campi analizza nei suoi approfondimenti è quello olivicolo, una realtà molto dinamica in regione che ha però ancora bisogno di strutturarsi per fornire redditi primari alle aziende. Dopo annate trionfali per quanto riguarda la produzione, le ultime hanno mostrato il fianco alle intemperanze del clima e alle orde di parassiti che stanno attaccando gli olivi. Serve dunque formazione per gli olivicoltori e informazione per i consumatori. Sono i temi del servizio di apertura, cui segue per la rubrica del bio la nuova attenzione prestata ai microorganismi del terreno che stanno mobilitando addirittura le multinazionali agricole. Per vino e dintorni oggi, dopo varie puntate dedicate ai lieviti, si parla della fermentazione alcolica, passaggio strategico in cantina. Parlando di orticoltura avremo poi una scheda sulle melanzane, ortaggio relativamente recente per la nostra regione, ma di grande soddisfazione per chi è in cucina. Per la rubrica della gastronomia ci addentreremo poi nello storico e variegato mondo dei patè, preparazioni d'alto lignaggio che ben si prestano anche a composizioni semplici come quello con i fegatini di cui diamo la ricetta. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Dopo Olio Capitale, Olio e dintorni, le due rassegne regionali che si occupano di olio e olivi, forse è l'ora di cominciare a tirare un pochettino le fila di un comparto che è in evoluzione sicuramente, ma forse non ancora abbastanza. Ne parliamo con Lanfranco Conte, già professore di chimica degli alimenti all'Università di Udine, consulente del Consiglio Oleicolo Internazionale e della Commissione Europea. La domanda, l'olio e l'olivicoltura, sono colture da reddito per la nostra regione? Beh, probabilmente ancora non si può affermare esattamente questo. Nonostante ci siano alcune aziende che stanno crescendo come dimensioni e che abbiano investito veramente tanto, però ancora non possiamo pensare che siano veramente colture da reddito. Questo non vuol dire che l'olio non arrivi al consumatore finale, nel senso che non venga imbottigliato e venduto. Abbiamo almeno 40 produttori che, a parte il consumo familiare, imbottigliano e vendono il proprio olio. Però se parliamo di reddito dobbiamo pensare a un prodotto che vada alla gran massa dei consumatori e questo ancora non avviene, tranne forse in un caso. Quindi ancora diciamo che è un prodotto che il consumatore può acquistare però andando in genere presso l'azienda o in queste manifestazioni così e quindi questo non lo definisce esattamente una coltura da reddito. Il nostro olio è troppo buono e quindi anche troppo caro? Il nostro olio è decisamente molto buono e abbastanza caro. Però poi anche lì bisogna capirsi, perché non è l'unico, ci sono molti altri oli in giro per l'Italia di elevata qualità che spuntano prezzi molto elevati. Abbiamo oli che viaggiano normalmente sui 30 euro al chilo al consumatore finale imbottigliato, eppure quando arriviamo a quest'epoca, o tra un mesetto, di questi oli non ce n'è più. Vengono già acquistati tutti. Quindi è piuttosto una questione del consumatore che deve abituarsi a questa cosa. È vero e si dice se l'olio è buono poi ne usi anche di meno, per condire, e quindi in realtà paghi un po' di più, lo usi per più tempo e ne usi un po' di meno. Dopo annate trionfanti, le ultime sono andate così e così, quindi è un altro nemico? Sì, le ultime annate non sono state un granché. L'ultima annata, se la vediamo a livello nazionale e internazionale, a fronte di una Spagna che ha prodotto 1.300.000 tonnellate, l'Italia ne ha prodotte 350.000. Di queste 350.000, diciamo, il sud è andato bene, ha fatto un 20-25% in più a seconda delle zone. A nord dell'Appennino, diciamo tutto il nord-nord-est, invece ha fatto quasi in alcune zone il 50% in meno, quindi annata veramente orribile. Mi dicono i colleghi agronomi legati al fatto che ci sono stati periodi estremamente caldi, proprio quando c'erano i fiori dovevano essere fecondati e di conseguenza anche tutti gli organi di fecondazione sono avvizziti e non c'è stato il passaggio da fiore a frutto. Capitolo informazione, capitolo divulgazione, capitolo assaggiatori di olio. Capitolo importantissimo, proprio in relazione a quello che dicevamo prima. Il consumatore dice, ma perché devo pagare così tanto se poi al supermercato lo trovo a 2-3 euro. Ecco, allora capire, il consumatore deve capire la qualità, deve essere educato alla qualità. È quello che si diceva, se è buono ne uso poi meno. Come fare? Allora, esiste un assaggio dell'olio che è organizzato secondo norme specifiche, che prevede corsi di 36 ore, eccetera, ma questo è un altro capitolo. Quello che probabilmente serve, a mio avviso, è una formazione del consumatore, un'educazione del consumatore con azioni abbastanza semplici, abbastanza rapide. Il consumatore medio, mi metto anch'io tra questi, per esempio, non può dire adesso spendo 36 ore e una certa cifra per imparare a conoscere l'olio, ma piuttosto una serata, magari per i prodromi, sì. E questo dovrebbe essere quello che dovrebbe essere fatto proprio per promuovere la cultura dell'olio e quindi il consumo dell'olio e dell'olio di qualità. Per avere un suolo fertile dobbiamo coccolarli e difenderli. Stiamo parlando dei microorganismi presenti nel terreno, da cui dipende gran parte dei cicli biologici. Della loro importanza, anche economica, come ci dice oggi Cristina Micheloni, si sono accorte anche le multinazionali agricole, che stanno intervenendo pesantemente sul mercato. Ma occhio a non cadere in lusinghe globalizzanti che potrebbero creare più danni che utilità. Torno sul tema suolo e sua fertilità, argomento che anima i dibattiti fra i biologici, ma di più recente interesse per chi biologico non è, anzi suona piuttosto strana tutta l'attenzione che ora richiama anche da parte di chi fino a ieri pensava fosse solo qualcosa che tiene sui pali. Ma ben venga questa novella sensibilità. Ora che i prezzi dei fertilizzanti inorganici continuano a preoccupare, anche altre alternative stanno conquistando il palco. Dopo aver abbondantemente perlustrato le potenzialità di sovesci e emendanti organici, passando per compost, borlande, è la volta dei microorganismi. Vero che loro, i microorganismi, ci sono sempre stati nel terreno e hanno sempre fatto un eccellente lavoro. Se glielo lasciamo fare, ovvero evitiamo di utilizzare erbicidi e concimi a rapido assorbimento, leggi urea e nitrato ammonico, non gli ribaltiamo casa con arature profonde, ricorrenti e con terreno non in tempra, e diamo loro da mangiare, ovvero sostanza organica. Sui microbi del suolo, che fissano azoto, rendono disponibili alle piante gli elementi nutritivi, degradano sostanze organiche e fanno un sacco di altre cose, si è aguzzato l'occhio anche dei maestri del business, tant'è che il Wall Street Journal riporta come, leggo, le start-up che commercializzano fertilizzanti alternativi per le colture dichiarano di guadagnare consenso tra gli agricoltori e, udite udite, tra gli investitori statunitensi. Continuo a leggere. Diverse aziende stanno spingendo lo sviluppo di fertilizzanti sfruttando i microbi o i prodotti a base vegetale per fornire i nutrienti di cui il mais e altre colture hanno bisogno. Continuo a leggere ancora. Queste imprese mirano a sostituire i fertilizzanti tradizionali, la cui produzione implica il dispendio di gas, una fonte energetica che ha raggiunto quest'anno prezzi record. Ecco, allora, gli investimenti attratti dai fertilizzanti di questo tipo sembra ammontino a $1 miliardo nell'ultimo anno, secondo le stime di una società americana. Ma chi sono gli investitori? Tra i tanti, il fondo sovrano di Singapore Temasek, la Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates e il colosso delle materie prime Bunge. L'amministratore delegato di una di queste aziende ci ricorda che l'applicazione dei microbi è spesso meno costosa rispetto a quella dei fertilizzanti. Ma come? Ci hanno convinti per decenni del contrario. La morale è che vanno bene pure i microbi, purché non siano quelli indigeni del vostro terreno trattato bene, ma li compriate in buste sigillate da coloro che fino allo scorso anno vi hanno venduto l'urea. Non badate le mie estremizzazioni, c'è molto di interessante nell'attività microbica da comprendere e utilizzare per la fertilizzazione, ma non è per forza chiuso dentro una bustina. Dopo aver parlato del ruolo e di importanza dei vari lieviti nella fermentazione dei mosti, oggi si arriva al dunque con il professor Zironi, che affronta il capitolo di quella alcolica, momento strategico per la formazione di tutti i vini. La fermentazione alcolica è il processo chiave della trasformazione dell'uva in vino, per mezzo della quale da ogni molecola degli zuccheri dell'uva, il glucosio e il fruttosio, si producono due molecole di etanolo, due di anidride carbonica e una certa quantità di calore. Protagonista di questa fermentazione, come abbiamo già ricordato, è il lievito Saccharomyces cerevisiae, ed una fermentazione si considera corretta quando la popolazione dei lieviti prevale velocemente sui microrganismi non desiderati, come i batteri lattici, ha un buon avvio e procede regolarmente nel consumo degli zuccheri fino al loro completo esaurimento. Nonostante che nella fase iniziale della trasformazione degli zuccheri sia presente una certa quantità di ossigeno disciolto, i lieviti, per effetto dell'elevata concentrazione zuccherina, non possono respirarli, ma sono obbligati a fermentarli. L'insieme delle reazioni di trasformazione degli zuccheri del mosto avviene all'interno delle cellule dei lieviti, con produzione di una molecola con alto contenuto energetico, usata dalla cellula per il suo metabolismo basale e per la riproduzione, e due prodotti intermedi chiamati acido piruvico e glicerina. I lieviti trasformano infine l'acido piruvico in anidride carbonica e alcol etilico che completano la fermentazione alcolica stessa. L'equazione chimica della fermentazione alcolica corrisponde ad una variazione di energia libera di 40 kcal per molecola di glucosio e fruttosio utilizzata. Un terzo di questa energia è utilizzata dai lieviti, mentre i due terzi non utilizzati, pari a 25,4 kcal, sono dissipati sotto forma di calore provocando un aumento della temperatura del mosto in fermentazione. In dipendenza delle caratteristiche del lievito, circa il 50% dello zucchero si trasforma in alcol etilico, il 45% in anidride carbonica, il 4% in glicerina e l'1% in altre sostanze di diversa natura che svolgono un ruolo essenziale nel determinare le qualità aromatiche e gustative del vino. I sottoprodotti più importanti della fermentazione alcolica, oltre alla già ricordata glicerina, sono l'acetaldeide, l'acido acetico, vari alcoli superiori e svariati esteri. Oltre a questi composti, i lieviti producono una serie di altre molecole secondarie che vanno a impattare sul profilo sensoriale del vino, rendendolo in certi casi unico. In un precedente appuntamento avevamo segnalato che alcuni composti aromatici caratteristici sono presenti nell'acino sia in forma libera che più spesso in forma di precursori, legati a varie molecole più complesse. Alcuni ceppi di lievito di Saccharomyces cerevisiae possono modulare efficacemente l'aroma varietale attraverso specifiche attività enzimatiche che agiscono sui precursori o possono essere specificatamente utilizzati per mitigare alcuni odori sgradevoli correlati con l'invecchiamento del vino. Il ceppo di lievito gioca pertanto un ruolo essenziale per quanto riguarda la capacità di produzione degli aromi caratterizzanti diversi vini ed esiste anche un'ampia differenza per tale attitudine tra lieviti del genere Saccharomyces e gli altri lieviti. Un ortaggio relativamente recente per la nostra regione, ma interessante per i suoi utilizzi in cucina. Sara Bosco ci parla delle melanzane con una serie di accorgimenti per la miglior riuscita in orto. L'intervento di oggi riguarderà tutti i vari aspetti che riguardano la coltivazione della melanzana nel nostro orto ma anche nel balcone. È un ortaggio che appartiene alla famiglia delle solanacee come il pomodoro e si presenta con una pianta rustica e resistente a molte malattie, ma l'unico punto debole che ha questa pianta sono le temperature, in quanto possono causarne o il blocco della crescita nel caso di temperature basse o la cascola prematura dei fiori nel caso di temperature elevate. Nel mercato sono presenti molte varietà di melanzane, che si differenziano per colore, forma e usi. Sono piante che prediligono un clima mite e temono il freddo, infatti quando vengono messe a dimora è importante che le temperature non scendano sotto i 10 gradi. La messa a dimora di questo ortaggio viene eseguita generalmente mediante il trapianto di plantule prese in vivaio, però si può ricorrere anche alla semina, tenendo in considerazione che ci impiegano circa 45 giorni per essere pronta al trapianto. Il sesso di impianto prevede una distanza sulla fila dai 50 ai 60 cm e tra le file dagli 80 a 1 metro. Il terreno deve essere preparato in profondità perché ha una radice molto grande e deve essere garantita una buona concimazione, perché è una pianta che richiede un buon apporto di sostanza organica. Il suo ciclo di vita, se le condizioni ambientali lo permettono, è abbastanza lungo, perciò generalmente viene eseguita una parciamatura per proteggerla sia dalle erbe infestanti che per mantenerla umida durante la sua coltivazione. Infatti le irrigazioni sono importanti perché comunque è un ortaggio estivo e quindi le temperature sono elevate. In particolare è preferibile andare ad effettuare un'irrigazione a gocce, in quanto non si vanno a bagnare le foglie che possono poi essere sede dell'insorgenza di numerosi parassiti. Questa coltura può essere coltivata anche in vaso, purché questo sia di elevate dimensioni e l'impiego di sostegni. Le melanzane possono essere sede anche di diversi insetti e funghi, ma spesso sono meno sensibili rispetto ad altre colture appartenenti alle solanacee e si riescono a contrastare con delle adeguate rotazioni. Oggi Roberto Zottar, per lo spazio della gastronomia, si addentra nel variegato mondo dei patè, un mondo ricco di storie e sfumature e, per non sbagliare, ci propone un classico, il patè di fegatini. Patè di fegatini non è solo francese, non è solo foie gras e non è solo per cene formali. Sto parlando del patè. Per lo Zingarelli è preparazione gastronomica a base di carne o di altro, racchiuso in un involucro di pasta salata o, in Italia correntemente, preparazione a base di carni o altro passata al setaccio. Potremmo quindi chiamare patè anche la varahara, tipica della zona di Timau, che è un pesto di lardo e ritagli di salumi affumicati che si mangia sul pane oppure scaldato in padella come condimento di verdure, gnocchi e chialcions. Patè e quindi anche l'antica sassacà della Valcanale, preparata sempre con lardo e pancetta affumicati e macinati, che era mangiata con il pane dai boscaioli. Nessuno vanta la paternità del patè, ma di certo già i macellai greci ricorrevano al trucco della carne macinata per utilizzare anche le parti meno nobili e gli scarti, e per i romani il patè era un piatto esclusivo e raffinato a base di carne di maiale o selvaggina. Dal punto di vista più tecnico, il patè si discosta poi dalle terrine, dalle mousse, dalle rillettes e dal marbré per alcune differenze fondamentali, la più importante delle quali riguarda la cottura preliminare dell'ingrediente di base. Per me però il patè per eccellenza è quello di fegato, meglio se doco o d'anatra. Infatti basta pensare che la parola fegato deriva sì dal latino, ma non dal termine iecur che indicava l'organo, ma da un aggettivo ficatum, da ficus, fico. Iecur ficatum era il fegato di animali ingrassati coi fichi e col tempo l'espressione si è abbreviata in ficatum, da cui fegato, un po' come quando si parla di milanese invece che di cotoletta alla milanese. Per preparare un ottimo patè di fegatini, pulite e lavate bene dei fegatini di pollo o d'anatra o di coniglio e lasciateli macerare con del brandy e qualche bacca di ginepro. Affettate sottilmente una cipolla e fatela passare in una padella con burro e olio. Aggiungete i fegatini tritati, una fetta di fegato di vitello, qualche fetta di pancetta arrotolato e del grasso del prosciutto, salvia, loro e rosmarino. Bagnate con la marinatura o con marsala secco, salate e pepate e fate cuocere per una decina di minuti. Togliete le erbe e una volta freddo frullate e montate con del burro o, per una maggior leggerezza, con metà burro e metà ricotta. Mettete in stampini a rassodare in frigorifero, sformate, decorate con foglie di salvia, rosmarino e alloro e servite con crostini caldi. Per renderlo più elegante basta lucidarlo con gelatina. Il patè si conserva benissimo nel surgelatore. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in regione. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 35 e 30 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento non quotato e la soia tra 65,80 e 66,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9 euro e la soia di 7 il quintale. Stabile l'andamento dei bovini del macello, con le vacche fine a carriera di prime qualità che sono pagate a peso morto tra 3,20 e 3,70 euro al chilo, IVA esclusa, quelli seconda fra 2,60 e 3,20. Passando ai vitelli da ristallo, il valore dei blueberry maschi oscilla tra 6,10 e 6,60 euro al chilo, IVA compresa. Quello dei pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, frisoni tra 1,90 e 2,20 e quello dei bruni tra 1,50 e 1,70. Resta al palo l'andamento del comparto suinicolo, con il latonzolo di 30 kg quotati franco partenza a 3,26 euro il chilo, IVA esclusa, i grassi da macello a 1,52 il chilo. Proseguito il buon andamento del settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 7,10 e 7,40 euro il chilo, IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 8,20 e 8,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,60 e 9 euro, con marchio di qualità tra 9,60 e 10 euro il chilo. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla tra 47,10 e 48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Mercato diversificato nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura viene quotato tra 11 e 11,50 euro il quintale, IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità tra 16 e 16,50 e la paglia di cereali pressati pagata tra 9,50 e 10 euro il quintale. In aumento anche il prosciutto di San Daniele, pagato con osso tra 10,40 e 15,40 euro al chilo IVA esclusa. Quello di Sossato fra 13,50 e 19,20. Da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi del legno da ardere, che vengono quotati a 6,70 euro il quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è aumentato di 30 centesimi. Scambi fiacchi con prezzi stabili nel settore avicunicolo. Il valore dei poli a terra varia tra 1,57 e 1,59 euro il chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,51 a 3,55. I tacchini maschi tra 2,28 e 2,30. Le faraone tra 3,85 e 3,95. I conigli oltre 1,5 kg da 1,67 e 1,73. E le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Ed ora con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di maggio, che si è concluso da alcuni giorni, è stato più caldo rispetto alla norma degli ultimi 30 anni. La temperatura media è stata superiore di 2 gradi in pianura, mentre sulla costa in quota l'anomalia è stata leggermente più bassa, fra 1,3 e 1,5 gradi. Nella seconda decade del mese, fra l'11 e il 20 maggio, l'anomalia è stata addirittura da 3 a 4 gradi superiore al normale. Siamo andati vicini ai record del 2003, quando la temperatura media fu ancora più elevata di 0,5 grado. La giornata più calda è stata il 27 maggio, quando in molte località di pianura si sono toccati i 31-32 gradi, valori comunque non troppo elevati, pensando che nel 2007 e nel 2008, in maggio, nell'Isontino, sono stati sfiorati i 36 gradi, 34 gradi invece nel 2003. Le piogge, anche in questo mese, su gran parte di pianura e costa, sono state molto inferiori al normale, poco più che una decina di millimetri sulla costa. In montagna, invece, fino a 136 mm in Alta Carnia. I valori, comunque, per gran parte delle zone della regione, sono stati parecchio al di sotto della media. Oggi, dopo una prima parte della giornata calda e afosa, l'afflusso di masse d'aria più umide ed instabili da ovest in quota, assieme al lieve cedimento dell'anticiclone, provocheranno probabilmente su tutta la regione la formazione di temporali nel pomeriggio e in serata. E qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, con colpi di vento e piogge abbondanti. Domani la giornata sarà stabile, con atmosfera più secca. Tornerà cielo sereno, poco nuvoloso, soffierà borino al mattino sulla costa e nel pomeriggio, solo localmente in montagna, sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Le temperature massime saranno intorno ai 30 gradi su pianura e costa. Martedì arriverà un moderato fronte atlantico. Ci aspettiamo nuvolosità variabile con temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata su tutta la regione. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Mercoledì e giovedì, con l'arrivo di aria più fresca in quota, probabilmente avremo condizioni di variabilità con qualche rovescio temporale. Le temperature saranno in lieve calo, con massime fra 25, 27 e 28 gradi. Mercoledì soffierà bora moderata sulla costa. Verso la fine della settimana sembra affacciarsi da ovest l'anticiclone delle Azzorre, che porterebbe maggiore stabilità e caldo, ma che sembra non essere eccessivo. Tale evoluzione potrebbe però essere modificata dall'ingresso sul Mediterraneo di una depressione che è adesso in formazione nel centro dell'Oceano Atlantico. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Canzian con la galette in man, ovvero a San Canziano i bozzoli del bacco da seta in mano. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.